My father's name was Elijah, and my name is Ragnar Pizer. Yo, yo, yo. Yes. È arrivato anche l'ospite. Tac. All'inizio, bro. Ragnar Paisa, come tutti i lunedì. Buonasera a tutti. Ben collegati, sintonizzati. In apertura, prima che me ne scordo, è già 2 settimane, lo voglio dire, 2 settimane che puntualmente me ne dimentico. A Parigi mi hanno fatto vedere un sito molto molto carino e lo volevo suggerire e consigliare. Ci sono un sacco di mix, ora me lo sto spulciando piano piano perché c'è un sacco di roba da sentire. Si chiama ridiculousrow.com. Forse è un sito famosissimo, io ammesso che non me lo dicevano, non lo conoscevo. Scritto, non lo conoscevo. Scritto come? ridiculousrow.com. E è di questo tipo, un appassionato di musica, un po' di tutti i tipi, un po' sull'onda nostra, diciamo. E ha il blog pieno di mix fatti da lui, con addirittura le tracklist con le copertine dei 45. Super. Degli album scannerizzati, c'è proprio un lavorino di fino. E andatevi a spulciare, io ho sentito un paio di robe, erano belle, insomma, tutta roba ricercata di vari generi, insomma, da sentire. Detto ciò, si fa andare Duccio e poi ci risentiamo dopo. No Jane?

Eccoci. Brother, stasera sei Antella proprio, eh? Disco Antella. Stava per partire la rissa di padre. È chiaro, no? Non c'è domenica pomeriggio all'Antella senza rissa. Metti sta roba, farti la rissa. Per forza. Solo rissa. Cioè, all'Antella si fa solo se c'è la rissa, se no è inutile. È compresa nel biglietto, insieme alla consumazione, c'è la consumazione e la rissa. Più rissa. Senti qui, che c'è la Pantera Rosa. Dopo la rissa. 0557399933 per chiamare gli studi di Control Radio. Storia di Struscio. Tommy stasera è ben predisposto. Eh sì. Nel frattempo ci ha raggiunto negli studi di Control Radio Mr. Frank. No, è venuto a parlarci del suo nuovo beat tape. Esatto. Che è uscito da poco, dopo lo ascolterete, ne parleremo un po'. Ne parleremo un po'. Col diretto interessato. Col diretto interessato, quindi domande, situazione per lui. Se ci volete chiamare per proporci delle domande o degli appuntamenti, 0557399933. Vai Tommy. Se no, info.ragnampaisa@gmail.com. Intanto lasciamo andare Tommy mentre prepariamo il tutto con Mr. Frank. A fra poco. Ramayan, Ramayan, Ramayan, Ramayan.

ese pájaro. ¡Pájaro! Abbiamo con noi Mr. Frank. Buonasera a tutti. Ai nostri microfoni. Non è la prima volta, comunque la prima volta dopo un'uscita. No, però forse è la prima volta che parlo al microfono di Ragnar Paisa. Ah sì? Sì. Ah, è vero, perché l'altra volta c'era Torme. Esatto, yeah. Io ero dall'altra parte del vetro. È vero. Intanto, mentre chiacchieriamo con lui, ci sentiamo sotto l'EP che è uscito fresco la settimana scorsa, giusto? Sì, nemmeno, proprio qualche giorno fa. Sì, e sì. Che vi potete andare a scaricare gratuitamente. Immediatamente. Cioè, dopo averci ascoltato. Comunque ora ne parliamo e vi diciamo tutti i details. A te la parola. Dovete andare immediatamente, o comunque mentre appunto ci ascoltate, su mrfrank.bandcamp.com. Poi da lì appunto ci sono tutti i vari Facebook, eccetera, email personali e tutti i vari contatti, diciamo. Analisi di sangue, sì, biografie, bibliografie, tutto. Ormai di tutto. Di tutto. Dici come si chiama, parlaci della reazione di questo EP, perché la gente è curiosa. Allora, il tape si chiama Beat and Zap. Perfetto. E per l'occasione diciamo che ho anche cambiato nomignolo, mi sono messo Frank Sativa. Esatto. Perché diciamo che è stato proprio l'EP che mi chiamava questo nome. Non vi stiamo a spiegare perché. Esatto. Immaginatevelo da voi. Esatto. E niente, l'EP è nato un po' diciamo nel mio studietto di sempre su a Torino e un po' appunto qua a Firenze. Yeah. E quindi a metà tra la Toscana e il Piemonte, diciamo. Mm-hmm. È un EP di 7 tracce, insomma, tutte super inedite. E niente, gusti ovviamente belli caldi, almeno spero di averli trasmessi. E niente, tutto qui. Ve lo sentite questo, eh? Tanto per rendere giusto idea. Per e c'è un featuring, vero? guarda, non è... lasciami ringraziare il super maestro, appunto, Paolo Parpaglione, che mi ha regalato questa, mi ha fatto questo bellissimo regalo su una traccia che insomma vi andrete poi ad ascoltare, o comunque che ascolteremo dopo in sottofondo. Appunto, lui veramente, gli devo veramente tutto su questo EP, quindi spiega chi è, perché magari la gente, beh, Paolo Parpaglione, la gente non, diciamo, sa chi è. Paolo Parpaglione è il è grave non sapere chi è, comunque. No, vabbè, per carità, ci sta, ci può anche stare. È uno dei fondatori dei Blue Beaters. Mm-hmm. Ed è l'ex saxofonista, ma a quanto pare saxofonista anche tuttora, degli Africa Unite. Esatto. Perché è tornato con le vecchie amicizie, insomma, degli Africa. E boh, quindi mi ha fatto questa perla di parte di sax che è tipo nella penultima traccia, vero? Yes. Se non mi sbaglio. Sì, sì, sì, sì, nella penultima traccia. Bene. Che è dedicata, guarda, se posso dirlo, ad una persona fondamentale. Certo, quindi che puoi dirlo. Infatti si chiama Per Te, e insomma sa chi è, quindi è qui scatta. E qui scatta. Dun dun dun. E attività live? Attività live. Che so che giri parecchio, perché anche se stai a Firenze, però sei sempre a giro. Sono a giro perché... Infatti è tipo da prima di Natale che non passavi da qua. Sì, assolutamente. Poi sono rimasto un mese a Torino, mille cose da fare, quindi sono rimasto un po' a casa, diciamo. Sì, sono un po' in giro perché appunto... L'altro maestro, almeno per me, Torme, insomma, lo accompagno con lui nei suoi live in giro. Che salutiamo. Assolutamente. Firenze che Sud. Salutiamo e ringraziamo per Firenze ovvi motivi. Sud, Firenze Sud Power. Ponta Ema. Rappresenta. Ponta Ema rappresenta. Niente, ultimamente stiamo facendo anche live appunto con Torme Primo, che tra un po' usciranno col super disco Micro De Oro, quindi... Perfetto. Super disco attesissimo italiano e che niente. Quindi almeno Torme dovrà venire in trasmissione a trovarci. Beh. Assolutamente. Lo prendiamo dalle orecchie altrimenti. E quindi sei a giro con lui? Sono a giro con lui, insomma, sto vivendo queste bellissime esperienze in giro per l'Italia. È un sogno, era tutto un sogno, come direbbe un altro rapper che è uscito. Che è uscito un tuo compaesano. Esatto, che un mio è compaesano, da poco. Un mio coetaneo, tra le altre cose. Quindi era tutto un sogno, quindi un po' parallela questa cosa. Però, insomma. Bene. È una cosa positiva, quindi. Siamo gasati. Ci vuole il desiderio, un ossessivo desiderio. Forse ci vuole. E... ci vuole musica, tanta musica. Quella sempre. Ecco qua c'è il maestro. lasciamolo un attimo. insomma, se volete continuare ad ascoltarvela, non dovete far altro che andare su mrfrank.bandcamp.com e vi scaricate a gratis, assolutamente, cioè senza tirare fuori una lira. No, no, insomma, mi lasciate la vostra mail. L'unica cosa che dovete fare è lasciarmi la vostra mail. Lasciate la mail, non abbiate paura che non è che arriva l'FBI in casa o che vi dovete fare un account fake di mail, perché poi dopo Mr. Frank vi entra zero carta caraggio, di credito, niente, il conto in banca e vi prende 2 euro. Imbranato sui computer. Dovete solo lasciare la mail e vi scaricate questo beat tape. Eh? Beat and zap. Beat and zap. Poi, tanto, Mr. Frank è sempre qua a giro per i nostri studi, quindi... Yeah, anzi, grazie per l'invito. È dovuto, dovuto. Assolutamente, onorato. E quindi, ora magari per l'uscita abbiamo preferito farlo stare dietro i microfoni. Magari più avanti abbiamo l'occasione di ributtarti nell'acquario. Vai, quando volete, proprio, sempre e comunque. Volevo solo dire una roba, un po' di promozione. Certo, tutto, siamo qua apposta. Io organizzo con dei ragazzi di Torino un super evento, però di street dance, quindi si parla di danza hip hop. Quest'anno diventa un festival, sarà il 6-7 aprile. Appunto a San Mauro in provincia di Torino, appunto a San Mauro a Torino, San Mauro Torinese, no, a San Mauro Torinese, no, a Campi Bisenzio, San Mauro Torinese. Comunque, per tutte le info c'è il sito goodlifelab.net/out4flame, for col 4, col 4, esatto. Un super festival, all'interno quest'anno ci sarà anche un super contest di beat, quindi insomma chi vuole venire, chi vuole andare, vada. Esatto, chi si vuole scannare, venga. Si scanni. Esatto. È bene che ci siano queste cose, perché... Assolutamente. Poi è un evento comunque indipendente, quindi non abbiamo grossi sponsor e multinazionali dietro, però è un grosso evento perché abbiamo 10 giudici in giuria, appunto internazionali, quindi dall'America, dalla Germania, abbiamo gente veramente che ha fatto la storia. E niente, quindi vi aspettiamo il 6-7 aprile a San Mauro Torinese. Bene, bene. Restate con noi perché adesso c'è l'ultimo set di Colossius e quindi rimanete fino alle 22:30. Fatevi accompagnare dalla nostra musica. Sì, che tra l'altro su questa tra poco uscirà il video, quindi insomma, ecco, rimanete, quindi, sintonizzati. Già detto tutto. Ora mi faccio anche un po' di pubblicità. Dai, Lucio, dici tutto. Insomma, se volete sapere quando esce il video, volete leggere anche le news di Mr. Frank, andate su www.rapburger.it. Yeah. E vi leggete tutte le news di hip hop italiano e americano. Ho fatto di recente un articolo. Anche Stefano a sto punto. Un salutone a Stefano Zago, a Cochi, a Tommaso Fobetti, a tutta la redazione di Rapburger. No, ho detto questo perché ho fatto un articolo, mi ci è voluto un mese per farlo, dove ho preso tutti i mixtape in free download del 2012. E li ho tutti catalogati in ordine alfabetico, dove ho messo copertina, titolo, artista, hosting, proprio... featuring e produttori. Mi ci sono finito gli occhi. Però alla fine ho tirato questo elenco di una credo per l'esattezza sono 61 mixtape. Mamma mia, che proprio. Vi potete scaricare in free download. C'è direttamente il link. E quindi se andate su Rapburger, c'è questo articolo che si chiama La Bibbia dei Mixtape 2012. Yes, l'ho letto. Sì. E quindi fate che il mio lavoro non sia stato vano. Quindi... un lavoraccio, un lavoraccio proprio. Andate lì e quando non sapete cosa ascoltare ne pescate uno a caso. Magari fa schifo, tanto è gratis, lo buttate via e ne scaricate un altro. No, saranno sicuramente delle perle. Salutiamo Mr. Frank. Scusami, Duccio, certo. Perché è doveroso, dato che non sono un VIP, non sono sempre in radio. Saluto la mia gente di Torino, mio fratello, poi Torme, Parpa, insomma, per l'EP e niente, è a voi. Un salutone anche da parte nostra a tutti e rimanete con noi fino alle 22:30. Colossius. Yeah. Thank you. Colombian, sir.

Thank you.